Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Tra le allergie da contatto, l'allergia al nickel continua a essere la più diffusa. In Italia colpisce fino al 32% della popolazione, con un rapporto tra donne e uomini di 3 a 1. A Obiettivo Salute la dottoressa Susanna Voltolini, specialista in allergologia a Genova e coordinatrice del progetto Allergicamente dell'Associazione Allergologi Ospedalieri Italiani, ci insegna a riconoscerla. L'allergia al nickel si manifesta soprattutto per contatto con oggetti metallici, quindi in particolare oggetti di bigiotteria, fibbie, cinture, bottone dei jeans, e si può riconoscere perché l'arrossamento della pelle è caratteristicamente pruriginoso e accompagnato dalla formazione di bollicine con liquido sieroso e successivamente da una secchezza della pelle che tende ad esquamare. Questa manifestazione in dermatologia si chiama eczema da contatto. Se il nickel vi provoca allergia, seguite sulle pagine di Obiettivo Salute le indicazioni della nostra esperta su dieta e trattamento. È scientificamente provato e misurato. L'allenamento fisico migliora la forza muscolare, la composizione corporea, la capacità cognitiva e influenza la longevità. La conferma arriva da uno studio italo-danese che è stato presentato nel corso del 49° congresso nazionale della Società Italiana Biochimica Clinica e Biologia Molecolare a Firenze. A Obiettivo Salute il professor Marcello Ciaccio, presidente della società scientifica. L'attività fisica svolta in maniera continua e proporzionata all'età, il peso corporeo, migliora la funzionalità di molti organi, certamente il sistema cardiovascolare, la funzione cardiaca, tutto l'apparato cardiocircolatorio, le funzioni cognitive, le funzioni gastrointestinali, una migliore risposta immunitaria ed aumenta le aspettative di vita. In termini di vita si vive più a lungo, ma soprattutto si vive meglio, con meno morbilità, quindi meno incidenza di malattie. E noi oggi con la medicina di laboratorio, con i parametri di laboratorio, siamo in grado di valutare questi parametri, quindi di poter predire la possibilità di mantenere uno stato di buona salute, la cui attività fisica contribuisce in maniera determinante. E a proposito di longevità, vi aspetto tra poco in diretta video con Walter Longo con il suo nuovo libro Alla tavola della longevità. Non mancate. La programmazione di Radio 24 continua con Melog. Io vi aspetto tra pochissimo in diretta video e domani con un nuovo appuntamento di Obiettivo Salute, sempre a mezzogiorno quando scocca l'ora della salute. Buona giornata da Nicoletta.